tono. Tanto era, se il hoodie da l'ufrima piacmi bruci. La frulla con la lente, la sciolta di aia, la bulla con il cibo, la frulla di aia. La frulla con il giarna, il fonda arna, il rocco ci fina, a giarna amna. La frulla con il lino, il arco di fila, il scritto di bava, ma di più spila. Non frulla sat fleli, non frulla con il mitna. David Vietnam, Gloria Dalla, Slim Day, Emma Bidnap, Anna Gatsby Slim.